non è e questo non è quello della capa della persona della capa della persona della capa della persona della capa della persona della capa della persona della capa della persona della capa della persona della capa della persona della capa della persona della capa della persona della capa della persona della capa della persona della capa della persona della capa della persona della capa della persona della capa della persona della capa della persona della capa della persona della capa della persona della capa della persona della capa della persona della capa della persona della capa della persona della capa della persona della capa. Bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo con el compromiso del gobernador que tenemos de la creación de esta mesa salarial por ley. Mañana estamos en la elaboración de este proyecto de ley. Mañana vamos a acudir a la Cámara de Diputados a partir de las 12 de la mañana con los compañeros de la Unión de Gremios Estatal y Privado, en donde vamos a hablar con el presidente de la Cámara de Diputados, con el presidente del bloque, para ver si realmente está la voluntad política de avanzar en el contenido de esta ley, ¿no? De lo contrario, medidas de fuerza es lo primero que uno piensa. No, pero por supuesto, nosotros vamos a dialogar hasta cuando haya, pero necesitamos que haya respuesta. Si no hay respuesta, y seguramente que en abril voy a encontrar en la calle nuevamente.